passa TMR. Oh, acceso là, bello male. Ah, mi senti? Già non ti sento, tu non mi senti? Già non ti sento, e beh, non è entrato nessuno, non è entrato nessuno. No, è stato solo coso. Oh, manicomio. Ha fatto un paio di chiamate. E poi è scomparso, ma io non potevo rispondere. Il resto non c'è entrato nessuno, sono tutti in giro. Beata Eddi, no, aspetta, non ce l'è, è venuta adesso. A chi era la camera mortuaria che è morta la sorella della buona anima di Mesuzza, la sorella della mamma di Paoletta, via Yolanda. Quella che aveva il negozio alimentare in via Maddalenetta. E quando è morta? Stamattina è morta. Stamattina, il giorno si è morta. Drummita, così. Era addormentata. Vedi, ha fatto la morte bella allora. Almeno non se ne è accorta ed è stata tranquilla. Era in casa di riposo, se ne era andata. Ma chissà se hai diviso in casa tua, a passare due. Va via l'appartamento nuovo, in campagna non ci abitava più. E se ne aveva comprato quell'appartamento, abitava lì. Però questi ultimi due anni, mi pare, era in casa, se ne è voluta andare a casa di riposo. Ed è andata all'ospedale che gli si rompia ad un piede, l'hanno ricoverata, lì hanno riprendito l'analisi, tutto quanto. E stamane invece non se ne è scendata. Anni va via, chiara per barriera, no? Più manna di mezzo sarà ira, vero Paolo? 90 anni va. Allora, la morte è bella così, così bisogna sì, senza soffrire, senza niente. Trombita e basta, un colpo a terra. E non se ne sarà nemmeno capizzata, da se drumita e non se ne è piscidata. È morta nel sonno, non se ne è manca accorta. Ehi, vabbè. Vabbè, che ha tribunato tutta la vita bruvista. Vabbè, però, grazie a Dio, già ha campato bene, dai, ciao. Già stava bene anche come reddito, dai, diciamo. Col negozio, già ci sono sempre salvati. Così è, e cosa vuoi fare? No, ma già era bella busca, non era né ciuppata né niente, sembrava una signorina. Vuol dire se ne fa, e poi non sono tutti così, ma evidentemente stava il fisico giovane lì, ed era tranquilla, va. Chiaro che ha una certa età uno, fa sempre un bel dritto e un bel di cura. No, come donna era ben messa, anche come fisicamente stava bene, era una bella donna, ma non gli dimostrava a 10 anni, non gli dimostravano. Ruga in faccia va via, no, come te mezz'ora era tutta bella di ruga. Bracci era bruciata, mamma mia, ma se Yolanda ruga non ne aveva, mancuna la via, era ligia. Evidentemente la carrozzona sua era così, capito? Ma magari una certa età uno e ruga ce le dovrebbe avere ugualmente, capito? No, sono tutti così. No, va bene, la mamma è Bavetta che era bruciata in faccia, non so come si era bruciata, non ne ha mai domandato, boh. E ora ci si preconisci da così, con la faccia tutta crucifida. Già è vero, cioè, non lo so come se l'ha bruciata. Come se l'ha bruciata Paolo? Come se l'ha bruciata mamma? Non si ne ammetta, sì. Ehi, la ragazzina con un caffè se l'ha bruciata in faccia. E già ti vediamo che va via la mente bruciata. E poi a Sizzetta va, riesci a ciamballa la bici, ma prima non finire nei cicosi, capisci? Che è rimasta impressa. Ma mezzo sarà lavorata all'orto, anni, da vicina. Poi a Candiramanna, che molto rumorigio l'hanno imbigliata a cuoca, alla mensa della scuola, i Lucrezi, e lavorava lì giù che ha sgobbato in campagna. E la femmina era tutta diversa dalla Giulietta. La Giulietta va via un negozio alimentare, buh. Evidentemente la bamboletta si è criticata di più e magari era un altro tipo di carnagione, capito? E non so, tutti che avevano la stessa età e rimanevano i perfetti, capito? Che magari Giorgio evidentemente perché ha avuto questa bruciatura, magari era rimasta in fretta, e la bici non ha lasciata mai fatta a rimodellare la bici, capito? Tutti non siamo bruciti, padri, figlia Paoletta, Paoletta è bella, delicata, ligia, per la Giulietta è curriazza, storcia che la palla, è filosa che pare una scimmia, con una tromba di naso, ma di monzon pare, un bugine. Ega, la Giulietta, così hai detto? La Giulietta, chi c'è che vive in campagna? Non dico che ha fatto una strada diversa, Issa. Anche se che bocci sono i trucchi che ti arruinano la faccia, Forse magari Issa si truccava troppo, mentre Paoletta non si è truccata mai. E andava normale, che è più sincera. No, che cazzo, proprio Issa non ha mai travagliato in vita sua, chi era la bocca di rubare di la mamma. Paoletta ha sgobbato da 12 anni da ribadrone, quando è molto rubato. Chissà non ha mai travagliato, non ha mai fatto nulla. A chi era la gocca, la minore, no, compreso. Cosa? Ah vai travagliene, chi ci non ha fatto prima, le fenne va, ah va già i travagliene, ma sa nessuna. E già rifatti re. Chi si è fatto prima cosa va? E già li sa bene. E ora venuto il Giuseppe tra pezzi la botta. E da me manda la fancù. Mi dico un male di voce, eppure tu non sei Giulietta di Paoletta. A peso mio mamma Gioia si ha fatto qualche scappa e stella, con qualche di un altro, non ti assomigli nulla, ma con pene ti assomigli. Non piglia di cuore a che cosa? Trento, con la baggio accesa, occhiali penne a disposizione, penne cruciferma. Ha detto che deve andare da Goso, da Gerri Scotti, che può vincere di là. Ma finito, Gerri Scotti, ha ridotto. Ma è come se volasse da domani. Già risolto per stasera, ma a fine di stasera, capito? È lunedì e tra l'altro gioco. Lunedì che cosa? Cioè, quel gioco. No. Chi sei bravo, ma se si va a servire e avanno un momento rinnovo. E già l'ho visto già. E ha fatto la da cruciferma. Non ti ripiace, già che faccia un bel. Mario Mao, chi sa di essere per i cruciferi, Mario Mao, parole crociati, Cazzo, ma c'è già sempre freddo, cazzo, va sempre lì. Cazzo, io non mi sono mai riuscito a fare niente. No, io un periodo gli ero mangiato, però da voi mi sono stufato. Anzi, fatti bene a chi sta di smemoriare un salvezzo, compreso. Però io, che parola che non sapevo, abbagliava, vedi, se era quella che pensavo io, me la controllavo, no, dove sono scritta, e già era così, parecchi buchi. E già è bello come cosa. Ti fa funzionare un cervello, dice, da vedi, ci ti impegni. A piace, a me non mi è mai piaciuto, perché non mi sono mai molto, ma non mi è mai piaciuto là. È bello, un passatempo, un passatempo, però allo stesso tempo ti aggiorni, mi capito, sai, impari anche tante altre parole che chi non sa cosa so, capito, cioè è bello. Viene gente appassionata, la gente sta seduta la lì con vici cruci verba, però da poi fare un cranio per dire si andano a fare qualche gioco come te i suggeri scotti e sei aggiornato così c'è possibilità di fare vincite. Hai visto quel ragazzo che è stato affitto, è più di 200 milioni ha visto quello lì. È bravo quel ragazzo, mi pare che è un campione più prima campione che Vecchiaggio. Eia, caspita, quello c'ha un cervellone, un cranio, hai visto? Con un gioco in un paio di sera ha fatto un malloppo che tu manco si travagli tutta la vita va arriva a fatti che ci di là. E chi ci l'ha fatta è un paio di lì. Bravo, Ce ne sono, sì, bravo, ma come quello, quello ha superato tutti, certo, veramente bravo. E stasera mi sembra che siamo tutti campioni, mi sembra che ci siamo. Se non sbaglio, no? Tutti campioni ci sono. Così che ci deve essere anche lui. Lui è quello che ha vinto di più sino adesso. Bravo, già l'ho visto, ma non l'ho guardato un po' e poi me ne sono convinto il cugino anche. Ma questa si era bella al camera da letto. E lei ce lo guarda quasi tutte le sere, io qualche volta me lo guardo, andrò a giocare al Vanuta, mi posso mettersi l'uretto, quando sta con il televisore a sé, io pure stiamo in cucina, se me la giuro me lo guardo in camera da letto, in paraedda. Però mi siedo io sul letto, dai cuccata. Ma io ce l'ho sempre, io quando sto per la baracchina sto guardando anche le altre migliori, per cui se la metà che dura ce l'ho sempre davanti, che vedo, capito, tutte le sere, salvo che non ci sono, ma se ci sono lo guardo tutte le sere, capito, e per cui li vedo tutte le puntate. Avanti che vuole entrare. Avanti, avvero, mica ti ho sentito, bella bella. Dai, dai, se fa la ringa, va più la pinza, se la venita. Se vuoi entrare, Ianna, la becca, e vai pure un vaccone, la becca. Abbaglia tu da dove vuoi entrare, ho uscito. Ho preso, dai, cosa sta Gesù graziato. Vai a me a beccia. Mi sa che è entrato e sei uscito dal balcone, correndo. Lo vuole appigliato, grazie. Avvio. Ha beccia la bocca e se la sta andata subito. E allora? Avvai, chi ridenni sotto i baffi. Ma per carità. Comunque così, intanto la fattoria di Nagis, capita, blu. 200, sì, milioni, no, non capisco, 200, 600-700 euro. Allora l'ho fatto per i dazza mia, a Rosale, che se li na, a chi vivo mangia pure lo stato da lì. Ma non credo, Evo, oh, boh, non lo so. Ehi, già stata, hanno bisogno di andare in ballo e sono un bel di dazza, ne. Ma Azucchi, capita, con chi se li na io mi avrei preso un super villone con tutti gli accessori, tutto quello che può esistere. Abbiamo fatto uguale i muri altri 3 metri con una recinzione tutto intorno, abbiamo messo Doberman, Pitbull, telecamere. Ogni 100 metri avrei messo un castelletto e una guardia giurata, non si sa mai che rapiscolo. Ehi, che secondo figlia che si piglia non ribasta di 200.000 euro, no? Che ahia, non è che puoi fare più tanto, ma può darsi viaggio, ragazza, può darsi chi lo viaggia e c'è la compareggia, a chi c'era la ragazza pure, l'hai vista? Ehia, ma l'hai visto qui con i tempi se mi corre in avanno, l'hai detto? E no che la stata in via Solari, ha ricuto una giusta un vigile urbano, 53 anni, è ridici da fuggire. All'onde di mezzo di notte era rientrata a casa e che doveva il culenne le domandava lo portafoglio, lo cellulare ed è riuscita a fuggire. E magari chi magari vive dalla tornata, ma se ci non ti credi che piglia l'assai, no? Immaginavo, dici che magari di là non la via blu più. E intanto uno la sta di sopra, e un monte nuovo, chi andi a luna e sole, gli va al monte. E chi ce l'ha che da abbassare? Al monte anzi, uno. Chi l'ha ricuto farrafatta ed è svenuto. E' andato a Robrotto a Secorso, si è citato mezz'ora a voi e lei ha detto a portafoglio e va via a 20 euro in busciacca nel suo baraccio. Che un giovanotto travaglia un 118, aiuta no, fa come ci si dice, nell'ambulanza lavora, gli dà i due citti, va via 20 euro in busciacca, tanto venire le bigliate, si è ripreso dopo mezz'ora e si l'ha buttato dal pronto soccorso, dalle auto vicino ai caccioni della Mondezza. Là le bisciate è svenuta e si l'ha ricucciato in mezzo alla Mondezza, bovaraccio. È ricoperato quello. Ehi, secondo se stai a ricucciare un griglia. Ehi, per carità. Che punto gatto, boh, e questo hai, se ci vuoi mettere in faccia e di là e metterlo là, dare di fuoco, dici, magari chi ti dirà che ti fai un bel di là non li fate niente. E allora va a tentare la gente, alla zona, dove c'è buio. Suonato, aspetta vado a vedere chi è. È carina, la Ianna. No, uno mi danno roba, la dice no, non mi segui. Ah, stai solo a vedere roba. È roba di breci. Ah, ho capito. Ma dato dirai. Sì, no. E fai lo voglio davanti. Potaci proprio anche roba magari ti interessava. Cazzo, ti sotto, sai come te. Sai, non voglio che cazzo l'ha già visto cazzo di uno, a tenero che vedeni a me con chiso, mamma cucci. E vai, se la voglio andare me la compareggio. Fai bene, fai bene. Bisogna fare così. Lasciala da, vai. ci passa più i nocchi. La dice no, non mi sei venuto a me, no, non mi sta restando in manco, non mi dici in manco. Non è assurdo, e poi due, non mi interessa, la giusti così, ma se ti dici no, non mi sei vinta. Okay. E sai che sono felicioso, sono tutti 30, capito? Che... vabbè, tanta rabbia di grazia, oggi purtroppo è così. E me non ne so cosa un cazzo nella nevata la roba, dunque, se da me l'ha rivista a segnare, cazzo lo sai, no, è a luna, quindi so cazzai, no, aria. Vabbè, vai, faccio il giro più mano, e lascia voce a ti torno a passare, no, che passa da lontano. La città è attraverso la gacca di un altro, no, non mi interessa, abbia di impresa buona. non si rivede, no, ti ne sei giunti mai, dice, ma a me dico non si vede niente, a chi va a bruma con la gamba, a me ne va a indogare dall'occhiello. Da me bene, in ogni altra che mi conosce, compreso. Che paese, via, perché sta, io non mi sta, prego, ci sono due macchie, non ne riferiti, da voi vi so chi ci negri, datemi la merce a chi ci negri, da voi a Zetta, si fa tutti i tutorali, si telefoneggiali, e allora vede qualcuno, si lascia la questione, passa che tu li becco. E di chi ci non me ne fa vita? Io che 24 su 24 usci di 10 non ti muro, ma... Ma visto un cinese che cazzo ne peggio ancora, che si sono prendi a vedere che ci godi, sai niente, capito? Tanto ero mesi passato in chissà cura che aveva c'ha ai nonchi, la polizia ne ha arrestato, due ne ha arrestato, a lunedì, quella roba in busciacca. Intanto, ripicciali e ne ricadali subito. Ma io ci non erano schedati, hai compreso la lira da e ti va a vendere la 30 kg, non hai compreso. Che ci sono sorsicchi, che ci sono sorsicchi per le macchine, capito? Chi ci dà la merce a chi sei, a chi ci negri, capito? A voi ci negri a me, merce dall'altro. Cazzo, si ha registrato le tagliette, non mi ha lì, invece, chilometri e chilometri di proiezione. Mi sotto il rubrismo come te paesi, pari su fatto, sono tutti così, sono assurdi, per carità, ma tu paesi, non andi noi, se alle giovani che pulisci di mezzo dai, chi vi fissò? Vai a Napoli, qua si eri in tre, vi so caccia, vedete che si godi, per carità, cazzo. Con l'accusa che non hanno il travaglio, un liccio video, fatene questa cosa in più, senza questa, tutti i furti che fatene, d'una santa vita. Cazzo, tutti i rivolti, e rilargiti, i pacchi, tutti i vicini di terra, cazzo, ma che è pericoloso a passarmi, a chi secondo me sta attento, cazzo, di stare tra i piedi, cazzo, e ti sto cicchiaggiare subito. E chi no, la stavolta, pochi mesi fa, mi è venuta da appunto Rubedi, e fai ancora analisi, l'ultima analisi li ha fatti l'altro giorno, deve andare a ritirarseli, la di 20, i suoi mesi, di una rete si è peso in analisi, a chi? Deve la seta, la dato una spinta con un vedi, a tirare bene in garage, non mi puoi passare. E la picchito la porta la seta se la punta per appena di tutti i rubini. E però lei da l'avvocato la volta e lei ci du, subito si era struppiato lo sangue e ci du. Ah, non te ne era uscito, però ti aveva appunto. Leggermente l'aveva buttata, però lei ha fatto l'analisi e due volte, stavo sicuro. Io non credo, in questi casi bisogna fare lì, non si sa mai. Bisogna prevedere queste cose. Io da voi che vi sei, non è stato fatto, se capisci, questo che avete tirato il tempo, o sei tranquillo, capisci? Devo mattarci là, mattarci lì, c'è la dola, l'hai giunta l'ambulanza, se l'ha buttata l'ambulanza, ma è lupi, a chiedere se butta pure a pigni, e poi a Guido l'ha fatto un casino, ma ho letto, pure mi è figliuta, però va a essere caduto, l'ha gettata a Guido, o Guidaclo, o Guidaclo, quasi di tutta la rifa, farà ne ha trommate, cosa andrà a dire? È capace di ne così in una faccia. Certo, là, la punta di un niente, per cui mi sono attento a quella che sta niente, capito? Chi non sei sicuro non bisogna di niente. E allora, da poi barini zoom, i barini. Ma qua di Rosane cosa cazzo uso, di zenni che andava a prendere la bocca. Oramai va nello salvezzo bruciato, comunque sta niente, non mi va a ragionare. Compresa a chi non faccio provato un bel buco. Ma non so qui, perché c'è un guglione, chi è parato. E tu come ti vedi chi c'è qui, chi sei tu? Non fa a dirlo, a chi non fa la sorvegno. Ma come fa? Non puoi dire niente, no, questi cazzi no. Si rovede, vabbè, sei sicuro che è vecchio, già faccio un discorso, ma quando lo rovedi come ti fa a dire una cosa che sei tu, no? No, no. Però Ezio ha fatto un preferito, è andato e si è fatto controllarsi e ha fatto bene. Alla macchina è tranquilla. Beh, già lo credo. Si cazzo, Paoletta ha trovato un muro di carabinieri. Paoletta insieme a quell'altra signora di qua del palazzo, che è un casino, no? E gli diani, se signora, ma se lei no, non è sicura di lui, noi non ci possiamo fare niente. E cosa arriviamo? Non vi potremmo fare nulla, solo che se lo vedete lì ci chiamate e poi intanto se ne va quando ci vede e poi domani è di nuovo qui, o se no da di più del ministro che andate e torna lì, così la legge dei carabinieri, hai compreso? Siccome se andate di vedere un niente, si coprono i rimanere, per cui infatti usate, è così purtroppo. Per carità, troppo, mi dico, troppo, e sto attento a me stesso. Ma no che gusta, ma in una grande città, a Milano, Torino, Roma, cazzo, lei mi dico, guarda, è una cosa incredibile, come dice, ma un bel, poi ti ha fatto vedere un caso di televisione. No cacchino, io mi immagino che è pieno, ma io mi devo dire che sto a bocca a becca, gente che conosce, butto dei ratti d'otti, mi imbattono tutti i nomi, a chi la merce la gatta nei nomi, ma è coprito. Cazzo rimane così a bocca a becca, burrovizio si va, se non fare alla bicca, tu li vedi per tutti i vesti, razzoni, ma pur femmine mi, pur femmine con gli vadi. Non è una che viene, ognuno chi sa se ci va nel secondo garage, chi sa in cui vada, e tu la vedi, è vestita normale, ma se fosse va la porta di là e pesa, guarda, si va, si tranquilla e sta via. Boh. Le femmine, quelli sono bei femmini che ormai hanno invidiato la fiata, fare di là, fare di chi si altro, capito? E purtroppo non se ne comprende niente, va. Ma tutti li va a girare, prima ma lo ferali. 30, 40 anni fa non c'erano tanti cose, e se uno andava magari era tranquillo, mentre va si dice andava con queste persone, ma che forse è pure in festa. E allora, come si fa tu ad andare con una femmina così? Eppure tu ce ne vedi, no? Le vedi belle legate, belle vissute, di tutti i ritagli io li vedi, no? Eppure si fa se ne vuoi salire, se io rimango a bocca a bicchia, sembra che era un bel duato, ma via la cartellina in mano, ed era rombato di via la vascola, belle vissute, belle legate, belle pulite. E che sa che si chiede? Cazzo, quando te lo vengo che ha bisogno di fare con la merce, se parato buco e tu io. Cazzo, ma è fida di tu. Una voce ai onchi, no, che va da reggio, no, di fronte a onde abito io, per lo scattinato, per un gruppo elettrogeno, no. Per l'inferriata, però un cancello, mi sono ricarito, ma farà un cancello. Ma la gibbia fino alle 3 o 4 era. Anche l'ha inviato la merce, ha ripigliato tutti e 4, si è fatta i ghibi, tutti e 4. Anche quando si fa la ghibi non li vede nessuno, no. Ma se io li vengo, a chi mi viene profilato davanti in faccia. Cazzo, ha giubilato un ricannocchiale, la giudice proprio in persona, no? Cazzo, si sono fatti, no? Da voi non riuscirò a briccare un muretto. Qualcuno è rimasto in terra, si è trascinato, ha dovuto chiamare l'ambulanza, ma poi si attiri, lui viene in terra. Là si è riuscito a camminare, si può immaginare. Eppure no, che un po' di volte venne l'ambulanza e la strada dal garage, se ne chiudere i 30 e se lo bucano. Oppure un bel arrivi in macchina, si bacchia nei vivi, 30 mi ha di lo grattacciere e ci va nei 30 la macchina e vivi, o con un finestrino a becchio, o con lo sportello a becchio, e ci va nei non ripeto, pure avanti, ci macciano, ripeto, 30 la macchina, sta spendendo nella luce, ci va nei macchina, si lampano tutto dal vacuolito della macchina e da becchio a via, ne hai compreso. E all'ordine del giorno mi ha di, per carità. Ma sì, ma sì, era andata a corpo, a fare il pizza. Però, un discepolo mi sta a farmi quasi di fronte. Ma senti, spera che ci tre una zintola, quando si gira un braccio e l'altro prende il giro, no? Io mi sento, mi sono girato e la giubica che la difesa. Si apri lo sportello, questi cosa cacco voi, cazzo che me ne fanno, cazzo non posso vedere, cazzo faccio dritto, ma che mi ha detto che gli è. A chi sono attaccato a briga, non hai compreso, cosa cazzo, e no che sono rimasti qui, fanno schifo fanno, a me già non mi è mai capitato, se è capitato a me non so come tenere il figlio qui, per carità. Fino che è all'ordine del giorno, sia maschi e sia femmine, per carità, e pure bizzini, bizzini di nuda, bizzini 12 e 13 anni. E a chiave correndo pure di cuore e correndo la droga, capito? Sotto e sotto si è preso pure la ricorda, sono i treni, che fate e per carità. Dice di minore che va dentro i cose, ma è di genitori tranquilli che sono pentiti bravi, invece sono bucchetti dei giubbuti. Mappo, va a mangiarti un brodino di mappo. E allora, più di uno venne, chi è che non si capito niente? Cosa hai detto? Puffo, vai a mangiarti un brodino di mammo. No, non mi piace il mammo. Io lo voglio di carri. Carri immaginata, lo vuoi? No, carri di mucca. O vitellone. Carri nome di Luca, ma Luca Flipper. Pure manicomio. E chi è Grazia? Luca manicomio sarà. No, eravamo di femmina. Femmina, allora era gay. Mi balia macio, no è femmina. Avanti signora voce. Vieni, tu sono qui, vieni. No, ha detto Gian Maria, si è accusato, mosse di femmina è. E io ha detto, no, a meno che non è gay. E io ha detto così, non sei femmina. E me la bello. Gian Maria, visola. Oh, a me mi pare mosse di femmina. Ah, va, per un rimbo, va. Come si chiami? Luisa? No, mi chiamo Mariuccia. Mariuccia si chiama, visto? Allora ha ragione Gian Maria che sei femmina. Mariuccia, e cosa sei, bionda, rossa o nera? Sì, infatti uso le zeppe. No, non ho capito, usi le zeppe. E le botte che usano i cugini di campagna. Ah, quelle col tacco a spillo. Ah, sì, no, lì ci vanno i risatteroni. Sì, sì, da 15. Sì, e poi mi mette prisma al contrario. Vabbè, adesso ti saluto. Ehi, ciao. Fai bene che lo metti all'incontrario il perizoma. Stesso a Gian Maria. Ehi, andata a me. Ehi, dove andare a travagliare? Infatti sapete un perizoma ha girato. Mariuccia, e allora travagliemi. Beh, sono risetti. Sì, grazie, per carità. Ma ancora strano entrare nel bacchisio. Ah, aspetta, richiamiamo. A te, dottore, bacchiseddo. Bacchiseddo sarà mormito. Tore sarà per le futtinghi. Oh, ricatta. Bacchiseddo sarà per poi se la macchina in garage, va. Senza, cioè. No, ma che ora sei più in casa, vai, quello che è già prima. Non penso, magari la campagna sarà stato alle 5 già come se andasse buio. Non penso. Si sa vedere la TV oppure, sarà invitato. Può anche darsi. Un attimino, grazie. Chiama dopo che entro in bagno. È uscito le sì. Ehi, stato di no. Ci siete qua a Remme però. Anche io lo sento. È un bel puro, strano, è un ronzio per sempre, a tua sarà apparecchio mio, non è che ha imbrato un cattrello, apparecchi, proprio la cura. Vedi, adesso è di meno, poco fa che non c'eri tu era di più, adesso è di meno, già sta diminuendo. Sarà passato nel gaccaio. No, è la temporale anche lungo, capito? E aumentando lo guerrebbe. Oh, questo lo riacqua il REM, però oggi ci sente. Cosa c'hai, quello preciso mio? È nuovo, sto usando sempre questo, c'ho pure questo e lo zodiaco, gli altri li ho tutti conservati. Lo zodiaco, chi c'è, sono il mumbo, è questo, però mi sembra se ritiro un buruizzo. Tanto uso sempre questo. Ma bisogna usare quelli, capito? Questo. Bisogna usare questo, che è già il nuovo, per cui figlio almeno QRM. E stazionare quanto li hai? E stazionare ne ho? Aspetta, il buon occhiali. Oggi mi sa che sono di più la macchina, perché ho militare. 2-1. 2-1. avevano un'attacchezza. Ma a parte c'era quando fa l'intorno aumenta, compreso. Quando bevi già fa burattere di manzano invece sono più bassi, sino per umidità e non più. Un'e 7, un'e 8 arrivi. E invece la sera, a parte sera, quando so umidità così, e mi 2-1, 2-1 e 2-1. Quando più quando faceva i rocchi, il temporale a 1 e 1 sale, a 1 e 1 sale, però non di più, capito? Ma io ve la bacio subito, perché c'ho l'accordatore inserito sempre, capito? Ma quando salgo a pulirmi quello spezzone del tubo, quasi me da lì un manzano, basta pulire un tubo, attacco un vino, tanto gli devo attaccare solo il PL, assai bongo, basta, come un... Ne svitto quello là e abito quello, lo metto tutto diretto, perché può essere pure che sia da questo spezzone che ho messo io, che mi dà le stazionate, capito? E la candela anche da passata che ero già messo il giornale in Natale Bessi, l'ha giuducato dove c'è la giunzione, era un po' gallinato e l'ha giustrinto, però c'è dispersione così, capito? Mi fa di QRM. L'espressione di QRM non lo fa, aumenta il stazionario se non è saldato bene, capito? Ma non è che crea QRM, capito? Peccato hanno cambiato quel filo, cazzo. Un'ora di travaglio non manco buono, cazzo, queste giornate belle che sto facendo quei giorni, mi sa, per essere un'oretta non manco buono. Mica quando era dall'altra parte il filo che parava in facciata, entrava il buco in un muro che ha giù fatto, non avevo mi stazionarie, non ce n'era nulla, so così sicuro c'è un mollo, se lo dire se lo darà a passare che dà che tu vira nel buco si prolunga stazionarie, non ne ho sicuramente dallo spezzone che ho messo, ma che mi ha dato l'altro gabbo io dello spezzone il PL, ho guardato solo questo di in basso, capito? Magari è fatto male inizio buco. Può essere anche ma no, infatti è un peccato, gatto, allora. Non si sente perfetti, gatto, fanno per di un'ora di tempo, gatto. L'altra volta volevamo venire noi e io Luca a pulire la porta, invece non hai avuto mai tempo. Boh, e lasciato qua tu hai dimenticato il muro. Vabbè, poi c'è l'uso contrattenne, ma lui. Fatti oggi stamane Baletta è uscita come migliore, ne sono toccata dalla una e più. Stasera è andata a questa messa, lunedì mi deve, domani mi devo ritirare l'analisi. E cazzo va sempre che cosa li fa e boh. Poi magari là di chi non è nulla che fa e freati. Dici un attimo, tira giù di tu io. Buonasera. Mi svegliato, semi, Gian Maria. A quanto sento. Però cazzo, dalla voce tua, la voce sua, c'è un abisso, grazie. E tu mi spacchi i timpani, la voce di Tore invece mi sembra che dietro il muro. A chi è del suo saluretto? A chi va freddo a capo, ma io ce lo intendo così bacio Tore, esce dal sottoletto. E dice che ci ho saluto, e bu, certo, non devo zicchiriano per farmi tindì. Abbada, io sono della vecchia di una femmina, Michela, così era Gio Mari. Mariuccia era. Ah, Mariuccia, attore. Non ne conosco, no. Michela forse sarà chi sa di un rifornitore. Quindi non conosco altro. E un momento, questa signora chiamava la figliura, il Vattidossi, la patincina, a bozzi, squarciagola. Michela! E io dal balcone di cucina le rispondia. E da parte a Michela, e le rispondi. Mila, pone Michela, da Michela, e io pone Michela! Capito mi hai? Tore! E lui! Certo! Andiamo a vedere, Gio Mario, anche ci vuole la canna là per scappare lì in città bossi! Cazzo, buonasera! Buonasera Gio Mario, che aspetta, come ti fa vedere che sono vicino? Vabbè, ormai lo conosciamo, so! Ormai lo conosciamo! Allora mi arrivi un messaggio, Luca Flippero, invece di entrare, boh, al telefono mi ha mandato un messaggio, e beh, cosa, boh. A me invece mi ha mandato una sa cosa, mi ha mandato. Quindi fa, quindi comparà. Quindi comparà, anche a me, però non l'ho guardato. Se so che no, cavati, mi manca bella in più, ciao. E di fatina pure. Ah? E dove fare i soldi? Oh, no, non ho visto cosa era. Sì, ma è te per da cosa? No, per un gioco, casina. Come ti va di là? Al videopoke, sì, fai un versamento di 10 euro e ne vinci il nostro gugante. Una valenza tu te ne mangia nel residuo, desi da chi, va a tenere di là. E tu riboni, niente ganci, se mi vuoi me le devi mandare. No, è la descritto, anzi si fa miliardi, poi dalla vincita te li torno. Ah, signori, buoni, direttamente, quando li vedi, li fai tornare indietro. Pure a farli, non posso dire un bel palo. Apriti la busciacca, a macco. Invece, così è. A me mi è caduta invece, se così stanno che me la mangiano. E allora, Gio Mario? Ma... stasera Zecchetti sul microfono del 497 l'Inter, che non sono riuscito a ciapparlo, a me ti capite già di entrare, si mi la ciappi giù sul microfono originale dell'Inter, che è Multicon 497. Aspetta Gianmari che me lo scrivo. Dai. Ma io non ci sono riuscito, cazzo. Ma prima le video un bel pagine in tre microfoni, ma non sono riuscito a cercare una pagina del microfono, tutti ben amplificati. Sei di vecchia data, magari non agatti più. Sì, ci sono, bisogna trovare la pagina, capito? Se scrivi la pagina non ti appare. Com'era Giovanni? Intec Multicolor? Allora, Intec Multicolor 497, sì, quello da base. Mino è un gettimi, Tore. Aspetta, sta scrivendo. C'era Bombolo, grazie. Ma ha chiuso. No, adesso non la può attaccare la 27. Ci stavamo parlando poco fa, che c'era anche Leoncino. Allora, Leoncino, io e Bombolo. Già ho sentito Leoncino poco fa. A voglia. Tore, ma ti ricrivo, ti vengo tutto tremolenti, di cosa vai, tremoloni? Aspetta, scrivete. Chi è? Chi chi è? Vediamo se c'è Macchisio. Aspetta, Macchisio. Macchisio, chissà cosa fa il ragazzo. Sarà invitato, che non vuoi. E Luca, Flipper, ACC, me lo vedi. Ho già dato la battuta, la vuoi farito. Ma nel PMR? Già. Non l'ho sentito, e chi lo chiama a vedere nel PMR? No, l'ha preso però, Anzi, no, non stasera, no. Stamattina era. No, non risponde. Un messaggio c'era nel telefono, da me. E cosa ti ha scritto? Scusa, ma da, e beh, ma che beh cosa? E cosa ne è? Così me l'ha scritto. Un messaggio vocale era, non era scritto. Bello, bello, cazzo. È il bello della frequenza. Bisogna fare la domanda per parlare con lui. È in casa Bullada. E allora, è bello. Aspetta che sto guardando Gio Maria. Dai, dai. Mobicom. Tutti con 497. Linte, che è quello da base. Microfono c'è anche il coso di cambiare canali superiore. E dai, c'è microfono. Eia. È un peccato perché da base è nuovo nuovo mio. Cazzo. Io l'ho adattato quello della Fayette, l'ho adattato, però è meglio avere l'originale suo se lo trovo. Se lo trovo me lo prendo. Beh, se lo trovi sì. A me c'è l'originale, ne avevo uno originale, ma l'ho venduto con l'altro che avevo preciso, che ha avuto il microfono originale, gliel'ho dato. Ehi, ma... Quello è l'uovo nuovo stesso, è un peccato, e quello c'ha le bande anche, hai capito? Io ho visto la voce la radio, mandami la foto a vedere. Ce l'ho in sala, ce l'ho. E domani faccio la foto e te lo mando. Ok. C'è il frequenzimetro e due smittere. C'è il voltometro e l'amperometro. Capito? È bello che ci sta. Oh, ne ho un altro smontato di quell'apparecchio, però quello che aveva tanto lello, che deve già consentire per la faccia di più. Ma non vedi i bici, non la usi. I pezzi si trovano, cazzo. Allora, sì, è meglio, ti lo vai a costare a un altro. No, mi lo lascio per non si sa mai, guarda che se mi faccio tutti i bezzi, capito? Era parecchio funzionava, non c'era ricezione, capito? Ma parecchio usciva tranquillo, però non c'era ricezione. Magari spendi una cazzata a farlo mettere a posto anche quello, da uno che va più strumentazione, da. Ma non mi interessa. No. Non mi interessa. Sono in magazzino, in Borigato, che mi devo pensare, io vivo in Luca, ma io vivo in un mondo, capito? Mi serve per pezzo, capito? Dico lì. Vediamo un po', Macchisio, ancora non è, non si è già parlato Macchisio, o si è già parlato con un amico ed è chiacchierando. Sicuramente, ma io pratico minuti di scacco di, ho già di 7.000, tanto fammi l'insulina, è tutto, già cammina l'orario. E vabbè, cazzo, sono di 7.5, cazzo, io me la posso, messo l'otto Macuzico, l'otto, sempre chi sono arrivo me lo posso io. No, io me la posso l'8-4-10, e va. vabbè, ma mi nasce buca, pigiamme il vino da buca, ritirare lo baracchino, liare il vino, staccare l'alimentatore, liare il vino e pulire la puzza. E dunque, gli ha fare così, se per un tempo suo io. Ah, io già non ho un problema, ho messo sempre attaccato e basta. Lo faccio, sacco l'interruttore, poi manca la corrente in tutto. E un altro mi fa, io lungo, non nato e non posso va a attaccare i libri in cucina, non attacco, manco un'idea, a chi non che me la rovinezza, come ti dice, con un vapore e tutto, e non ne lascio attaccato qua in cucina. Se non lo vuoi attaccare a fianco al mobile di vicino agli anni di rato, ma con vapore e acqua e tutto, ma me la rovineggia, no, no. Vabbè. Purtroppo, si sta attaccando, si sta chiedendo, che sta? Dottore, e me? Dai, ti stai avvicinando già, oh yeah! Chissà che mi cazzi a Rucucca che andrà a cattattino, cucù, dottore! Allora c'è che, là. Allora c'è che, lasciamo Zecca in pace. Lasciamo Zecca, grazie a... E chi dà ragione? Magari è due più colpito, ma reggeggia più bene di me, così che io sono con i ciappuglioni e basta. Ma se tu lo scrivi, poi lo clicchi, c'è tutta la pagina. È pure un ridocchi che avvirà e che hanno fila. Ma di leggi, premi dove vedi che c'è scritto, e leggi, no, e lo vedi, tanto go, tanto non cosa, è un'ega e tutto. Ho provato, l'ho già avuto io. Ah, va, provatore, mi dà sicuro che la ciappa la magia giusta, ma che mi sono tante immagini, capito? Forse le cose su eBay, forse le immagini diverse su eBay, capito? Può essere pagina all'estero, un muro, capito? Tu lo scrivi su Google, col microfono, eccetera, eccetera, su Google, poi ti esce la schermata, ti esce, no, l'indirizzo di chi ce l'ha, e poi tu leggi e magari chi tu ti dici chi vi dà su un altro sito, capito? E premi lì e lo vedi lo stesso, su eBay, su Amazon, esci ma stessi. Su Amazon ho guardato io, su Amazon. Ma tanto se non vai in Italia c'è la cosa nei paesi, come cavolo si chiama, il Regno Unito, capito? Lì c'hanno tutto, lì c'hanno tutto, lì non ci ho guardato, vedi? Ma dacci che lì ci sia. Vedi lì il Regno Unito, e chi mi pare giù così? C'hanno tutto, c'hanno. Io molte volte guardo anche lì, in quelle pagine, c'hanno tutto. Ah va, chi tu può dire che mangio un biliardo? Di no, che in Italia gustava l'udoppio, si può dire. Invece io me l'ho ordinato dalla Spagna, è già stato 2 mesi e mi è arrivato da ben 2 mesi. E la ci pagato la metà di chi su curcano che in Italia. E un sacco di cose da compro pure, anche in Cina. Hai detto 2 mesi, quando arrivi, già arrivi. Lo credo, prima o poi arrivi. Ecco, i 5.000 cicche e l'ho preso dal Regno Unito io, infatti. Sì. Però ho pagato 15 euro di trasporto. Mentre che no, che magari era viaggio gratis, però costava di più. Anche io il trasporto, per i subusini, l'ho pagato 30 euro, 15 per portarlo a Milano e poi altri 15 da Milano alla Sardegna di trasporto. Però mi è convenuto lo stesso, perché ci ho risparmiato un bel di comprarlo qua in Italia. Va. E così sarà a fare un microfono. Ha già usato l'apparecchio preciso a quello che ho io, lì al Regno Unito, con 400 canali, mentre il mio è 40 canali, ci possono fare 400 canali, questo che ho io, però non so cosa bisogna fare, non l'ho mai fatto, capito? Mentre quelli che ci sono tutti di 400 canali, capito? E sono con le bande e funzionano sia a 12 volte che a 2 filtri, capito? Perché è la base. Ehi, la scheda c'è, c'è la scheda che compri la scheda solo in nome da voi di vagata di chi vede a buona piazza a Pisa. Non è così semplice, no? Vendono la scheda e c'è tutti quei canali, già lo so già. Vendono un sacco di cose nel Regno Unito. Ogni minima cosa, la casa è il Regno Unito. Infatti, così. Non lo so se ci vuole la scheda o se bisogna invertire dei fili, ma non mi interessa, non mi interessa le 400 canali, basta le 40 canali, non lo so mai, se no me lo potevo fare mettere, però non mi sono mai interessato, mi bastano 40 canali, capito? Per cui va bene così, ma per dirti, no, questi che stanno uscendo adesso sono già in vendita con 400 canali, capito? Sì, il 497 da base. Ma intanto non ne va di un po' di canali, non ne va nulla. Cazzo, siamo sempre il su 23, cazzo, vuoi che il fazzoleggio. Sul 10, sul 5 è morto, non va più nessuno. Ah beh, lo dice, ma stessi, non va più nessuno, cosa ne fai di questi gatti, ma... Ah beh, un bel, vanno tutti i gatti con un telefonino, e si sono trattenuti sul telefonino a baracchino, ma lo sai gli autisti che ci sono nel telefonino, col baracchino della Midland, che c'ho sul telefonino. Pieno, si amassi di femmine. Vabbè, ma non mi interessa a me, fa vedere un chissà così, capita? A me non mi interessa, infatti, non sono salato proprio per quella. Si abbassa che mi mattare se non cambia un wiki, io pure un telefonino, lo saranno. Se non mattare un gambo se lo mattare, io non me ne mattare, mi batta così. Così che per cui sono con tranquillo Marzetti. Capito bene, però beh, non mi interessa a me queste qua, tutto lì, Tore. Gianmarì, mi sa che l'ho messo, però mi dà tutti altri microfoni diversi dell'Intec, proprio io sono merudati, mi ha dato un apparato solo e boh, mi dice cosa ne pensate di questo apparato 497, beh, basta, Gioruchiso mi dice. Nel Regno Unito hai guardato. Non me ne dà, non me ne dà, mi dà tutti altri microfoni diversi. Boh, strano, è in Francia, ha provato. No, il Regno Unito ci sono gli apparecchi così, il 497, quelli nuovi che sono usciti, capito? No, il microfono non sono riuscito a ciapparne uno. Vabbè, se ti capita in qualche pagina me lo dici e lo ordiniamo. La serie ha aggiunto un microfono da tavola, un tuner. Lo stava vendendo questo di Porto Torres, Gianmarco. beh, tunnel, che tunnel? Che tunnel? Sono tutti tunnel. Boh, quella che tu tunnel, ma non me la metto al microfono via. E c'era, 90 euro le la vendenti. Boh, c'erano soltanto i microfoni tunnel. C'è il tunnel più 3, il tunnel più 2. Tanti altri tipi che non mi rammenta là. Certo. Vabbè. No, mi interessa, il microfono è a Naggio, ma non è a Naggio me, solo che mi interessava se la ciaffo il microfono originale delle 497, capito? Per avere proprio l'apparecchio completo, perché è un peccato. Quando l'ho preso questo apparecchio, il microfono non ce n'era in dotazione, era senza microfono. E a Torello non è a microfono. Dovresti chiedere a quelli che ai radiotecnici, che ci che perlomeno affossavano i baracchini anche. Ehi, va bene, se lo prendo nuovo io, se lo trovo lo prendo nuovo, usati non le prendono. Oh, capito? Perché l'apparecchio è nuovo, sicché se lo metto un microfono nuovo, sempre se lo trovo pazienza, ci lascio quello che c'è, basta, capito? E adesso già ci controlla bene il Tore, ma da Cittore riesco a trovarlo, o in Francia o Regno Unito, capito? Lucinda che ha posto un foglio, domani non ve manco cura perché c'è allerta gialla, tempo veo domani. Mi sembra che l'ho visto anch'io un foglio appeso sulla ringhiera dove ferma il tram, un foglio bianco. L'ho visto dalla finestra e non so cosa c'è scritto. Boh, no, ma finora me l'ha detto su internet, l'ha visto. Oh, che il sindaco domani è allerta gialla, dunque non fa manco curi. Ma che curi? Ma attacchi temporali fate. Si ha posto il tempo vero domani. E ho fatto la di Wicuro, il telegiornale, no, a mezzodì, no. Un tempo a Cagliari, ha giocato in tempo a vedere, pioggia a Natra, tutto va, però era a Cagliari, a Sassari non l'ho visto. Boh, noi vennero maremotto domani, no, li bindi preparati. La canoa, ma li preparati io. Mi sta la butta di usi, no. Lei mi ha mai preparato la vacca, mi ha preparato, ossia che se non da tutto ne farà tutta l'eva da gozo. Ah, tanto già si fa tutta su. Ah, io gli ammireo, il bombolone di ossigeno, pure si sta all'agaduto, mi sto combussando. Sono un gommone gonfia già dove fai su. Mentre attacco direttamente alla macchina, passa già pronto. Chi faccio la butta di osi, ma io gli manco se mi lascio, anche andare a ridivi, leva, non è tanto facile a ridivi. Ma dai, no, che ti farà tutta su leva, mi si fa. Quindi non avevo preoccupazione noi, perché tutta leva che fa si farà a su si fa. L'onda, abbandata a vedere. L'hai soprammodulato attore, grazie. Lasciate un po' di tempo questo. Se no mi soprammodulate. Hai soprammodulato attore, grazie. So, ti ha soprammodulato come solito. Grazie, cazzo. Lasciate che vedi che ti sono vero. Avanti, è vero. Fabrizio, vieni avanti, che adesso ti ho conosciuto. Avanti, è vero. E non ci vuole entrare, timido si chiama. Capito, se viene l'onda, chi sonda, chi su maremoto, era 15 metri alta. ma si noi siamo usilo, non ti tocca, non fa ripi quei vetri, no. Mica usi l'asso. Ma chi sta dritta come ti rubelmo? Ma come ti un serpente, cammina dritta con cimmi. Ma noi già si possiamo più direttamente lo commore facciamo per tutto. Che amari! È vero! Siamo amici! Noi ti pigliamo lo commore, altro che fai, vai! Che amari! Ti faccio c'hai! Chi ti sei carisanto? Oh, Lu! Oh, fai cazzare a Graziano, Lu! Oh, ya! Ehi, Graziano, Graziano! Va bene, sto arrivando, sì! È una campana, sembri, ma eri tu a vero? Mi sembrava Fabrizio, la voce! Sì, sarà quel magone della Tedocce, dai, c'è lui! Cosa, quel magone è morto? È cubicchetti, si è cubicato buruendo! E allora? Niente, dai, ho bisogno la cosa a mamma, è alta. 169 mi pare, 95. Oh, e a mezzo di via, 105, adesso non lo so. A 153 per la via io. Ah, ti do oggi per la piazza, rimani a 153. Oggi per la via un beaccia. Ah, però a chi ha mangiato un bel di roba rimane a tutti. E la minima quant'era, Giovanni? Ah? La minima quant'era? La minima? A me mi segna sempre proprio una cosa giusta e basta. Oh, non ce n'è minima e massima. La minima, non me la metto mai, che la minima prima mi sia sempre bassa, 60, 65, mentre io la comincio a superare 150. Mamma 95, 105, 110. Ma la sono tutti uguali, no? La sono tutti uguali, no? La mia mente, vedo tanti tipi, per cui la mia aspetto 45 è normale, capito? Oggi per avere un beata, un bel culo, mi pare che 199 mi pare che per via oggi, si può immaginare. Però se vuoi me la misura per il soltanto per un bel più basso, va, capito? Io avevo bisogno di lunetto per la via stamani, 153. Prima di mangiare per la via, 105. Ora me la devo misurare subito. Adesso parlo di pressione, non sto parlando di glicemia. Ah, di pressione, no, la pressione non lo so, non me l'ho misurato. Ma io penso che la pressione ce l'ho giusta. Già ce l'ho la macchinetta, me la misuro ogni tanto, chi ti si può a misurarmi la ogni di mano a gente a misurarmi ogni di la pressione. Paola Rosa mi ha pigliato, Giovanni. Come te io, non piace, mi faccio 3 o 4 macchine, che male. No, sono andata alla dottoressa, a Cadiglie, mi ha messo la dottoressa. Cantina, non è. Sento? La pressione, canto la via, la Cadiglie. 80-130. Ma era giusta, a me era giusta, capito? Me l'ha messo la zaenda, più bucci. Giovanni, mamma ce l'ha sballata. Poco fa mi sa che era 166, 93. Io andassi un pregiudizio, filati di macchiette, io andassi un pregiudizio, se ci vuoi, faccio questa blu, chissà di prima, chissà antica, chissà quello cosa faccio, quello chissà faccio, però filati di 4 dell'altro e non riesco a farmi la misura proprio giusta, non mi so come ero il figlio. Io faccio che ci ha fatto la rettangolare lunga, è nuova che è antica, ma è un buon combo è nuova, avevo comprato alla parafarmacia il coso nuovo, chi si tipo nella Reci, quello l'ho comprato nuovo, chi dirà un bel vizio. Però la macchina è nuova, nuova, funzionava, ma io non me la misuro brutto, sì, mi intendo male, se no non me ne misuro. Chi devo a regalare le misurazioni? Pugliese, ma che vuoi misurare bene? E allora sì, mi ha domandato quando sono andato, rimetti il cazzo, me lo il puglio, a chi vuoi assegnarmi di arregare video, allora gli hanno bumme. No, a me mi ha dato il libretto per misurarmi la glicemia. Chiaro Manzano, lo mezzo era Rocchi. Per 4-5 anni mi l'ha segnata, me la misurava da voi. Mi dicono che mi sticato a misurarmi, e non ne bisogno misurare di più. Guarda, già mi sa che anche lui mi posso andare, c'è il bolso un'analisi che dà. Quando mi dice che è troppo alto, quando è regolare, eccetera, eccetera, capito? A me mi ha detto ultimamente, a regalare la macchinetta della glicemia, prima la regalo il quadernino, che ce l'ho, no, per segnarla. La prima volta mi porti la macchinetta della glicemia, anche la macchinetta della glicemia c'è la data e le misurazioni, lo dovrei andare e se lo guarda, capito? O sea che gli dica che balla tu, infatti ma di te è bella la notte, mi sa che è un po' altuccia, e vuol dire quei giorni mi ho mangiato l'arancio, oppure mi ho mangiato chicco, ma ci ho mangiato una caramella, si deve essere un po' alta. Aspetta, c'è qualcuno che sta tramodulato, avanti, vuole entrare. Sore! Sei a Giammaria. Ebbene, l'hai trovato? No, tutti gli altri microfoni mi dà, proprio quello non me lo dà. Ma si decapiteggia, già te l'hai segnata allora, d'accordo. Ok, è così, No, non lo sto segnando più io, capito? Che oggi abbiamo messo a girarmi un capo buono, ma che cose, va bene, riprendi Luca, non riprendi tu, Luca, dai. Ci saranno tutte altre cose, altri microfoni, altre radio, tutte diverse, però chi sei proprio non me ne degno di chi, manco quell'apparato lì mi sta dando. Vabbè, io chiudo, Gianmarì, ciao, buonanotte. Ciao Tore, ciao chi è in ascolto, ciao Luca, alla prossima. E a me di Brescia. Lei mi va a fare l'insulina, dai, da bene, no, che ti va a fare il ciao Paoletta, non mi coda ruccio. Ciao a Cavero, ciao a tutti chi è in ascolto, a domani se coincide, ciao, riprendi a vero, riprendi su Giorni Maria. Ok, ciao, ci sentiamo, a domani se cucino, ciao, saluta in casa, vai tu. Ciao, grazie, stammi bene, non abbuffati stanotti, mangia leggero e stai bene. Porcetto, con patate. Ma com'è la gente mangia leggero? Mi ha colesterolo, bobo. Magari da voi la farà mangiare un pezzarino, giuro, magari una fetta di battato, lo sai che mangia, poi c'è un poco, è diventato un poco. Allora poi gli avevi pensato dottore a pulire l'appuccio. E allora, Luca, si è assentato, è messo della pressione alla mamma, anche la casa della mamma. E infatti, se ne vengo subito. Ehi, Giomari, schiatta. Ehi, vabbè, solo che c'è da va. Caro Grido, vediamo un po' se risponde il signor Macchisi, a chi sì. No. sapeva io se volevo entrare, entra, salutaci almeno, dai, ti sono da Galato. Sabi, sono, è vero. Ah, sono Luigi, Sabi, boh, ancora per la Mariuccia. A Gaida. Boh, Gaida, conosciuto là è tutto, sono affrontato, l'ho conosciuto io. Mariuccia dice, si chiamava. Allora, ho installato mi qualcosa che ha detto, che mi ha mandato Luca nel telefono. L'ho dovuto scendermelo io, che gli si mi ha mandato Edo, non me lo faceva installare. Allora me lo seso io. E in tutti i canali c'è gente sempre. Lo so che in tutti i canali c'è gente. Parecchi pure ce ne sono. Sì. Tramite computer, come i radioamatori che stanno usando le cose diverse, installano queste cose e molti stanno chiacchierando così, capito? Ma non vi piglio tutto, non mi interessa, capito? Quello sì. Quello già è vero che l'apparato è apparato, il telefono è il telefono. Ma me lo voleva installare Luca, no, aspetta, la base della stagione di Maracchino, io volevo un telefonino, va. Scusate, allora sto disturbando una vicina di casa, praticamente su Sky lì entro. Non lo so questo praticamente, tu hai qualcosa? Sei a Giomarino. Hai sentito a Luca? No. Dice che sta disturbando la televisione su Sky. Può essere che la disturba su Sky. Deve essere che se l'ha interrotto Sky, a chi si interrompe gli si dice. Hai sentito Luca? Giovanni, aspetta che sto parlando con la vicina di casa, guarda che mi sta sopra di me, detto che sente tutto. E dice che la disturbo su Italia 1, boh, secondo me c'è anche una bagnata. È un macello, Poi c'è pure anche una bagnata. Non dovrebbe entrare. Credo che non ci dovrebbe entrare, vero? Se c'è l'antenna messa male, vuol dire allora disturbi. Ma entra sulla parabola, no? Non penso che entri nella parabola. Certo, nella parabola non ce la fai entrare perché è tutta una frequenza diversa. Certo. E poi puntate sul satellite, sul coso, sull'antenna potresti entrare, ma non sulla parabola. Certo, se ti intendeva Vidalo a Sarra e fai prima. No, non è la parabola, no, c'ha l'antenna normale, Sky lo guarda con la scheda. Sì, ma non può guardarlo che ci vuole la parabola su Sky, che c'è il coso, il decoder. Ma ti va di Vidalo, c'ha un decoder, c'ha. È attaccato al satellite Sky, non è attaccato a coso. Hai compreso? Vabbè, scusate un attimo, che salgo un attimo, guarda, 2 secondi. Se non ci siete, ritenetevi salutati, dai. Ok, vabbè, io... Giomari, siccome ti metto a mente a me, io chiudo. Ci sentiamo alle prossime, Giomari. Magari domani, se ci sentiamo. Ok. D'accordo, dai. Buon proseguimento, saluto di casa. A domani, se Dio vuole. Va. Ciao, Giambello, buon proseguimento di serata. Ciao, e anch'io chiudo. Va. Ciao, Luca, allora, buon proseguimento e a domani. Chiudo anch'io.